Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Rieccoci, Luca Tremolada al microfono. Guido Romeo, buongiorno. Buongiorno. Un graditissimo ritorno in studio. Sono le 16.33. Oggi dedichiamo la puntata all'ambiente. Qual è il titolo? Il locale è bello quando si parla in inglese? Local is beautiful. Mamma mia. Local is beautiful. Andremo a Perugia, andremo anche a Cagliari. Cagliari, insomma, giriamo un pochino l'Italia, pochino, un pezzettino l'Italia, ma prima sentiamo le news. Finalmente un po' di scelta su iPhone. Il navigatore internet di Opera Software per iPhone di Apple è stato scaricato oltre 1 milione di volte nel primo giorno in cui è stato reso disponibile ai consumatori. Il 13 aprile Apple ha accettato la distribuzione del browser di Opera per il suo iPhone e gli utenti hanno apprezzato. Social network. LinkedIn parla italiano. La rete sociale per professionisti più popolare del mondo è ora in italiano. Attualmente conta oltre 65 milioni di membri in tutto il mondo e più di 14 milioni in Europa. In pochi minuti, scanner di centinaia di pagine. Il software messo a punto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Tokyo si avvale di una fotocamera ad alta velocità che scatta 500 immagini al secondo. Gli uomini non possono compiere più di 2 azioni alla volta, perché il cervello si divide in 2 impegnando un emisfero per ciascun lavoro. Riportata sulla rivista Science è la scoperta di ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche francese. Se il compito è 1, l'intero cervello è impegnato in esso. Se sono 2, invece, i 2 emisferi si dividono in lavoro. In sostanza, il cervello, più che multi, è bitasking. Allora, la battuta del bitasking l'ho fatta io, però l'abbiamo sempre pensato che gli uomini più di 2 cose, cioè già 1 è buona, 2 è troppo. Eh? Io ascolto e non penso, o parlo e non penso. Senti, andiamo a Cagliari, che è meglio. Andiamo a Cagliari e ci colleghiamo con Giacomo Caro della Biomedical Tissues. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, voi avete un brevetto che parla di energia ed ambiente, lo introduciamo con una scheda e poi vediamo di capire un po' come è nato questo brevetto. Il petrolio produce CO2 e la CO2 torna a diventare petrolio, anzi biopetrolio, perché quello messo a punto da Giacomo Cao con la sua Biomedical Tissues è un processo che sembra un'alchimia degna di Cagliostro, ma che è possibile solo grazie alla biologia. L'asso nella manica della startup cagliaritana, che ha appena depositato un brevetto europeo per proteggere le sue tecnologie, è una grande abilità nell'indirizzare l'attività naturale delle alghe che, attraverso la fotosintesi, assorbono naturalmente l'anidride carbonica per trasformarla in un prodotto da cui estrarre combustibili puliti, buoni per auto e camion. Il costo è già competitivo, $60 al barile, e un'aria decisamente più pulita per tutti. Però a danno delle alghe? Le alghe sono degli esseri viventi assolutamente reperibili e non sono le alghe di cui si parla, e di soprattutto di quelle che si vedono quando ci immergiamo con maschera e pinne. No, ma infatti, però in mare, nel senso che sono loro le spazzine, com'è che si possono definire? Le mangia l'anidride carbonica. È un termine appropriato in questo caso, perché semplicemente metabolizzano l'anidride carbonica nelle sue forme in soluzione, accrescendo la loro biomassa e in parallelo generando e producendo una miscela di lipidi che poi costituisce, diciamo così, la composizione del biopetrolio che si può estrarre da queste microalghe. Quindi quello che esce, diciamo, da questa fermentazione, da questo metabolismo, da questa digestione da parte delle alghe, non è direttamente, come dire, il greggio con cui uno riempie i barili, c'è e poi allora, un passaggio. E allora saremo davvero Cagliostro come l'introduzione. Beh, avreste fatto bingo sostanzialmente. No. Cioè, scusi? Avreste fatto bingo a questo punto. Avremmo fatto bingo, concordo. No, semplicemente, come dicevo, le microalghe in coltura assorbono nel loro metabolismo, come tutte le piante del resto, l'anidride carbonica, e la metabolizzano per produrre dei lipidi che possono essere estratti dalle membrane cellulari che li contengono, generando il biopetrolio. Ecco, ma poi questo biopetrolio, cioè, dove va a finire? Che cosa serve? È un business nascente? È qualcosa? No, guardi, la composizione del biopetrolio che si ottiene da questa tipologia di microalghe, dalle svariate tipologie di microalghe che abbiamo testato, è assolutamente, diciamo, conforme al biopetrolio oggi sul mercato ottenuto da piante, da coltivazioni di piante oleaginose, iatrofa, oli di palma. La composizione è sostanzialmente simile. Per questo biopetrolio esiste la possibilità di un processo noto per essere convertito in biodiesel. Quindi sostanzialmente questo processo che è stato messo a punto da questa azienda lavora. Mi scusi? Lei è di questa, perché l'ha detto, come dire, di questa azienda che non lei è dentro a Biomedical Tissues. Ma guardi, in realtà io sono, come uso sempre dire, un docente universitario che... Prestato, dire, quindi? Prestato, diciamo così, che ho coordinato per conto di questa azienda questo progetto che ha coinvolto altri soggetti, oltre all'Università di Cagliari e oltre naturalmente alla BT che ha messo il capitale per portare avanti l'attività, anche altri soggetti. Quindi anche lei si trova nella scelta, anzi nella non scelta, se saltare se diventare imprenditore, sposare questa innovazione, quest'idea, o restare in università, oppure no, non c'è nessuna scelta, io resto professore universitario, loro gestiscono il... Ma guardi, noi di aziende ne abbiamo costruito 3 in 3 anni, quindi io sono in questo momento presidente del consiglio di amministrazione di 2 spin-off dell'Università di Cagliari, quindi per noi ormai è stata una scelta quella di tenere, se si vuole, il piede in 2 staffe, perché crediamo di poter, diciamo, interagire molto bene con queste piccole realtà che si creano. Sai, in Sardegna il tessuto delle piccole e medie imprese innovative è modesto, noi abbiamo dato un piccolo contributo a incrementarlo. Caola, volevo riportare invece su questa cifra dei $60 al barile. Lei, prego, evidentemente è contento dell'alto prezzo del petrolio, perché più è alto più voi siete competitivi. Più noi cresciamo. Però la domanda è importante, diciamo, perché lo scenario per questi biocombustibili, questi biofuel, è sicuramente molto promettente. L'Europa ha un traguardo di avere, mi sembra, il 10% di biofuel nelle benzine, nei combustibili per auto entro il 2020, ma come ci arrivate a questi $60 al barile, e potete arrivare anche a costi più bassi, perché poi in futuro sarà sempre più agguerrita, no, la competizione? Non c'è dubbio, ma in questo momento noi ci siamo tarati su un prezzo di commercializzazione di quest'ordine di grandezza che crediamo sia, diciamo, competitivo, possa diventarlo nel brevissimo rispetto al greggio. Naturalmente ci auguriamo che una volta che il processo dovesse appunto avere un riscontro industriale, cosa che in questo momento evidentemente ancora non ha, non possano esserci delle economie di scala che possano portare ad una diminuzione significativa di questo prezzo. Senta, abbia pazienza, ma le alghe dov'è che si trovano? Cioè, com'è che le allevate? Sono che forma? Cioè... Guardi, le alghe sono delle microalghe, quindi non sono, si vedono, delle alghe unicellulari, hanno un diametro dell'ordine di una decina di micron, sono alghe che si possono acquistare sul mercato, sono di varie tipologie, gliene cito 2 giusto per darle 2 nomi, una Chlorella vulgaris oppure un Nanochloris. Ma quando lei dice che si possono acquistare sul mercato? Assolutamente sì, ci sono dei centri di ricerca che allevano microalghe, ma per altro tipo di studi, evidentemente. Però se uno se le mette nell'acquario non serve. Esatto, ma voglio dire, le motivazioni sono diverse. Si tratta di acquistarle, poi naturalmente si fanno crescere, si crea l'inoculo, e un una volta che c'è un inoculo, quindi una concentrazione di cellule, quindi di microalghe particolarmente adeguato. No, perché io sto guardando perché c'è l'occhietto di Guido Romeo che sta brillando, che già secondo me si immagina delle grandi coltivazioni di acquari in casa, cioè altro che local is beautiful. No, cioè. Io immaginavo il tuo acquario, Luca, e dicevo, bisognerà ricordargli che non provi a farsele in casa, perché nell'acquario poi i pesci magari mi ammazza tutti i pesci, credo. Credo di sì. No, anzi, tenete presente che come tutte le piante nel metabolismo da un lato assorbono, quindi metabolizzano CO2, ma rilasciano ossigeno, quindi si aumenterebbe la concentrazione. Sì, però devo buttare dentro secchiate. Quindi i pesciolini sarebbero contenti. Magari se le mangiano anche i pesciolini. Ecco. Potrebbero. Adesso questo test, devo dire, non l'abbiamo fatto, per cui no, perché sta non sono in grado di darmi una risposta. La mia idea malata era quella di far passare il modellino della petroliera che si rompe, lascia la chiazza di petrolio, arriva l'alga. Però, no, vabbè, cioè, sono stimolazioni orrende. No, comunque, benissimo. Io però la ringrazio e magari quali sono i prossimi passi? Voi avete adesso preso il brevetto. Esatto, noi abbiamo depositato il brevetto a livello europeo, questa azienda ha depositato il brevetto europeo, sì. E adesso il passo immediatamente successivo che auspichiamo di poter fare è quello di dare dimostrazione della efficacia ed efficienza della tecnologia messa a punto, come si usa dire in gergo, a bocca di CO2 emessa. Cioè stiamo immaginando di organizzare una dimostrazione su un impianto di un centinaio, 200 litri a bocca di emissione, quindi per esempio in prossimità di una centrale termoelettrica. Ecco, quindi lanciamo un appello, chi ha una bocca di CO2, quindi una raffineria, un grande impianto industriale che emette CO2, potrebbe prestarsi a sperimentare con voi, a farvi sperimentare come trasformare l'anidride, quindi un'emissione un gas serra, certo, in un prodotto positivo e lucroso. Quindi l'appello l'abbiamo lanciato. Sì. Nova Lab 24. E eccoci, 16:46, Luca Tremolada, Guido Romeo. Torniamo a parlare di clima, in particolare torniamo a parlare di lotta all'inquinamento partendo dal locale. Noi siamo in collegamento con Karl Ludwig Schiebel, ho detto giusto? Mi sembra di sì. Buongiorno di Alleanza per il Clima di Perugia. Ecco, allora professore, stia con noi un secondo, lanciamo una scheda per capire di che cosa andremo a parlare, poi torniamo subito da lei. Salvare il clima cominciando da casa propria. È questo il succo di Local Solution for Change, il confronto di 3 giorni tra esperti e amministratori italiani ed europei che si sta concludendo in queste ore a Perugia. Il capoluogo umbro rilancia la sfida di Copenaghen per salvare il clima, ma scommette sulle azioni a livello locale, grazie soprattutto alla rete dell'Alleanza per il Clima, che a 20 anni dal suo debutto riunisce 1.500 tra gli enti locali più verdi d'Europa. Queste città, piccole e grandi, sono la dimostrazione che tecnologie e soluzioni sono a portata di mano. Ma adesso sta a comuni, province, regioni e imprenditori trovare l'equazione giusta per combinare fotovoltaico, eolico, biomasse e risparmio energetico con paesaggio, beni storici e mobilità. Quindi sembra, cioè, pare un'alleanza per il bene, insomma, ragionando un po' in termini di guerre stellari, cioè nel senso sono tutti soggetti che guardano alle tecnologie per l'ambiente e che cercano di fare rete. Sì, infatti. Questa rete ormai è nata di 20 anni fa e non è che noi nella nostra percezione cerchiamo di fare qualcosa nel piccolo che è un grande problema. Invece, essendo nato 2 anni prima di Rio de Janeiro, prima di tutto il processo internazionale sul clima, la nostra percezione, in tutta modestia, è che sono le città, sono i territori, le province, le regioni che spingono il processo per ridurre le emissioni di gas serra, non solo per risolvere un problema globale, cioè l'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera, ma perché è la strada indicata, è la strada che porta a uno sviluppo capace di futuro per quanto riguarda la mobilità, perché la mobilità individuale motorizzata ha raggiunto dei limiti che porta a una struttura economica stabile, perché l'isolamento termico e la ristrutturazione del residenziale crea posti di lavoro, porta a un ambiente più sano. Quindi noi vediamo gli enti locali e territoriali come la vera forza propellente per questo per le soluzioni per questo problema globale del clima. Ecco Schibel, ma ci faccia qualche esempio di casi concreti, perché poi noi italiani insomma siamo meno pragmatici, efficienti dei tedeschi o dei nord europei, quindi ci racconti qualche città che ha fatto delle cose possibili e molto importanti. Io ricordo che lei ha fatto un bellissimo libro un po' di anni fa, 100 città contro l'effetto serra, dove c'era una rassegna fenomenale di casi sia italiani che europei di grande innovazione e di applicazione di tecnologia a livello cittadino e quindi anche di miglioramento della qualità della vita alla fine. Infatti, e le soluzioni ci sono tante. Cioè, se noi parliamo di ridurre le emissioni di gas serra nel territorio, stiamo parlando di mobilità, stiamo parlando di efficienza energetica, stiamo parlando di energie rinnovabili, stiamo parlando di stile di vita, quindi è un ampio raggio di campi d'attività. E se guardiamo gli esempi, uno si potrebbe veramente chiedere ma in che senso l'uno ha a che vedere con l'altro. Per esempio il comune di Dresda, ormai un comune di 500.000 di abitanti, ha un impianto di depurazione delle acque reflue che energeticamente è autonomo. Significa che loro dalle acque di scarico recuperano il calore che loro con impianti fotovoltaici sull'impianto di depurazione, con una serie di misure sono riusciti che questo impianto è energeticamente autonomo. Sembra una piccola cosa, ma se uno sa che queste pompe quanto consumano, che questa è una parte consistente del consumo di un ente pubblico, di gestire l'impianto di depurazione, è una soluzione importante. Quello che mi preme, prendiamo altri esempi, il comune di Bolzano e la provincia autonoma di Bolzano per avvicinarci all'Italia, con Klima House, cioè con degli standard elevati per la costruzione ma anche per la ristrutturazione delle case. Ecco Schibel, abbiamo ancora un minuto, dov'è che un ascoltatore ma anche noi possiamo informarci per conoscere queste città e conoscere anche le soluzioni che hanno messo in atto? Avete un indirizzo internet, avete delle letture, sì, dei libri? www.climatealliance.it e il nostro sito, lì si trovano anche altre indicazioni. E gentilmente ha già menzionato questo libro Edizioni Ambiente, Carl Ludwig Schibel, Silvia Zamboni, dove facciamo 100 esempi e dove con ogni esempio abbiamo anche messo un sito internet, un indirizzo, allora, un numero di telefono. Allora, noi ci prendiamo l'impegno di ricordare sul Twitter di Novalab24 questo link, queste informazioni, poi le pubblicheremo anche sulla pagina di Facebook e poi anche sul sito di Radio 24. Per cui, insomma, cominciamo un po' a far girare la voce, facciamo un passaparola radiofonico. Io la ringrazio Guido Romeo, l'appuntamento è a questo punto lunedì alle 16:30 con Novalab24, arrivederci. Ciao.